Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Anzi, tentale var, oio l'ossio, befagna, maria, telentari, ortene. Arigli ti arundullavi, lumbole a sindano riello, caita morni e falma linna rimbe mettar hissie, un tuppa calachiglio miri oiele. Si vannuna, romello vanno a valimar. Na marie, na hiru vaglie valimar, na elie hiruva, na marie. L'armonioso linguaggio che abbiamo ascoltato non è una lingua della Terra e nemmeno quella di un ipotetico pianeta extraterrestre. È invece una lingua di fantasia, un idioma artificiale vagamente ispirato al finlandese e chiamato dal suo inventore il Quenya o Alto Elfico. Fonemi consonantici e vocalici, accenti e dittonghi, verbi e aggettivi e naturalmente numeri, significati sottesi e sfumature che ne fanno una lingua completa e pienamente parlabile da un popolo a sua volta creato per farlo. Uno sforzo di fantasia enorme, sovrumano, forse irripetibile, anche se non isolato. Oggi, Destini incrociati racconta della capacità dell'uomo di creare mondi di pura fantasia per spiegare meglio il mondo reale e cercare di trasmettere valori universali grazie a universi fittizi, così ben descritti da farli sembrare veri o realmente esistiti. Ora fa attenzione, il Sire Denethor è il padre di Boromir. Dargli notizie della morte del suo amato figliolo non sarebbe saggio. E non menzionare Frodo né l'anello. E non dire niente nemmeno di Aragorn. In effetti è meglio che non parli, peregrino Tuk. Non sapremo mai che cosa sarebbe successo, Lucy. Ma quello che succederà è un'altra storia. Li aiuterai, insomma? Ma certo, insieme a te. Oh, beh, se fossi più coraggiosa. Se tu fossi più coraggiosa, saresti una leonessa. Allora, io credo che i tuoi amici abbiano dormito abbastanza, non trovi? Se è vero che Gandalf, lo stregone del Signore degli Anelli, e Aslan, il leone parlante re di Narnia che qui abbiamo ascoltato dai rispettivi film, sono personaggi inventati, tuttavia sono stati così ben descritti dai loro autori prima sulla carta e poi nella trasposizione cinematografica, al punto da far dimenticare la loro origine di pura fantasia, assieme a tutti i loro compagni di avventure, i terribili nemici, i luoghi incantati o tenebrosi e alle lingue che si parlano. Mondi dentro ad altri mondi, che provano a comunicare con il nostro attraverso il linguaggio della favola, del mito, della fantasia. È la mitopoiesi, letteralmente creazione del mito, un genere narrativo che sintetizza una mitologia fantastica creata appositamente da uno scrittore o da un regista. Prestare. Il mondo è cambiato. Lo sento nell'acqua. Lo sento nella terra. Lo avverto nell'aria. Molto di ciò che era si è perduto, perché ora non vive nessuno che lo ricorda. Da Lovecraft a Herbert sono molti gli esempi di letteratura del passato che deriva dalla mitopoiesi e di cui J.K. Rowling, con la saga di Harry Potter, è oggi la maggiore continuatrice, se non altro in termini di risonanza e vendite. Ma oggi Destini scenderà più a fondo nel tempo e nei diversi mondi, tra il reale e il fantastico, alternando la tranquilla vita quotidiana di professori tra un'aula di scuola e una biblioteca a epiche battaglie tra il bene, il male e segreti perduti. Tutto ha inizio a Oxford alla fine degli anni 20, dove di fronte a un camino scoppiettante, un uomo, la pipa stretta tra le labbra, sta finendo di scrivere un racconto che narra le avventure di Bilbo Baggins, un hobbit della Terra di Mezzo alle prese con orchi, elfi, stregoni, anelli magici e molte altre cose più grandi di lui. La firma in calce a questa prima stesura è Sir John Ronald Reuel Tolkien. Sir John Ronald Reuel Tolkien. Io di solito disegno una figura quasi umana, non una specie di coniglio fatato come alcuni dei miei recensori inglesi pensano, con un po' di pancia e le gambe corte, una faccia rotonda e gioviale, orecchie leggermente appuntite ed elfiche, capelli corti e ricci, i piedi, dalla caviglia in giù, coperti di peli bruni, vestito con calzoni di velluto verde, panciotto rosso o giallo, giacchetta marrone o verde, bottoni dorati, un cappuccio verde scuro con il mantello. La descrizione di un tipico hobbit che abbiamo sentito raccontare da Tolkien stesso nasce dall'esigenza dello scrittore di raffigurare, pur nella fiabesca rappresentazione dei tratti, la semplicità rurale e la somiglianza con il modo di vivere e pensare dei contadini, o in genere degli abitanti della campagna inglese negli anni della Prima Guerra Mondiale, catapultati in una guerra che richiede atti di eroismo e sacrifici enormi anche alle persone comuni. E Sir John, tranquillo professore al Pembroke College di Oxford, marito devoto e padre premuroso, apparentemente appartiene a quel tipo di persone. Ma nella sua mente, a partire dagli anni 20, ha inizio un processo creativo senza sosta, con la definizione del mondo di Arda, dei suoi abitanti, delle sue creature amabili o mostruose e dei loro linguaggi. Un mondo parallelo, tutt'altro che comune e spesso per niente tranquillo. Le vicende dell'Hobbit Bilbo Baggins non si fermano infatti al libro a lui intitolato, ma proseguono, passato il testimone, al nipote Frodo, all'interno del più vasto e spettacolare affresco fantasy della storia della letteratura mitopoietica, il Signore degli Anelli. A Bilbo, Gandalf, Sauron e Gollum si aggiungono decine di personaggi, buffi o impavidi, magici o meschini, eroici o tenebrosi. La narrazione riprende là dove l'Hobbit si interrompe, inserendosi in un'ambientazione di così ampio respiro da sembrare presa da libri di storia di epoche perdute e miracolosamente ritrovati. È invece solo il frutto della mente geniale e feconda di un uomo innamorato di miti nordici, di filologia e storia delle religioni, ma anche e soprattutto della pace e della libertà. A Destini Incrociati abbiamo iniziato a immergerci nel mondo epico e immaginifico di J.R.R. Tolkien, sapendo che ci attende un fantastico viaggio nella terza era della Terra di Mezzo. Ma per capire meglio come il grande scrittore inglese sia giunto a concepire e concretizzare il suo universo fantasy, dobbiamo fare un passo indietro e scoprire quali e quante influenze nel corso della sua vita abbiano contribuito a portare a compimento il suo monumentale lavoro. Mai come questa volta viene spontaneo cominciare con un «C'era una volta». Sì, c'era una volta un bambino di soli 3 anni di nome John, che nato in Sudafrica da genitori inglesi per motivi di salute nel 1895, torna a vivere in Inghilterra, nei pressi di Birmingham, con la madre e il fratello Hilary. Il padre, Arthur Ruel Tolkien, a sua volta malato di febbri reumatiche, non è in grado di affrontare il viaggio e, nonostante la promessa di rivedersi al più presto, non si ricongiungerà più alla famiglia, morendo nel 1896. Mabel, la giovane madre di John e Hilary, sola e spesso afflitta da difficoltà economiche, è tuttavia una donna forte e volitiva e soprattutto appassionata di lingue e antiche leggende che instancabilmente narra ai figli la sera, provando a coprire il vuoto incolmabile dell'assenza paterna. John e Hilary crescono sognando ed emulando battaglie tra eserciti del bene e del male e fingendo imprese eroiche intrise di magia e di mistero. Ma presto è nuovamente il mistero della vita a riportarli a una realtà ben più cruda. A soli 34 anni anche Mabel muore, lasciando i fratelli Tolkien, poco più che 12enni, definitivamente orfani. Come fai a raccogliere le fila di una vecchia vita? Come fai ad andare avanti quando nel tuo cuore cominci a capire che non si torna indietro? Ci sono cose che il tempo non può accomodare. Ferite talmente profonde che lasciano un segno. Le ferite profonde che John Tolkien condivide e fa pronunciare al suo personaggio più amato, l'hobbit Frodo Baggins, non guariranno davvero mai. Tuttavia, in quell'inizio di Novecento, per lui è solo tempo di studio e, come è d'uso nella puritana Inghilterra di quel periodo, un orfano non può che trovare accoglienza presso la Chiesa. Sarà padre Francis Xavier Morgan, sacerdote cattolico degli Oratoriani, a fare da guida e precettore a John, che rivela fin da subito notevoli capacità linguistiche, eccellendo in latino, greco, gotico e persino nel finnico, al punto da voler lui stesso iniziare a mettere a punto un linguaggio di sua invenzione. Ricordo il giorno in cui per la prima volta vidi su una lapide le parole Adelaide Vid, 1887, costruito nel 1887, e me ne innamorai. Così anche il gallese divenne una fonte inesauribile di bei suoni e perfette costruzioni grammaticali, un linguaggio melodioso a cui poter attingere per le mie future invenzioni linguistiche assieme al finnico, al greco e all'italiano. Nessuno mi crede quando dico che Il Signore degli Anelli è un tentativo di creare un mondo in cui una forma di linguaggio accettabile dal mio personale senso estetico possa sembrare reale. Ma è vero. Le storie della Terra di Mezzo sono quindi servite unicamente a dare una collocazione, seppur fittizia, alle parole dei miei linguaggi. Non era stato dunque il contrario. La filologia e il linguaggio sono per Tolkien fin da ragazzo la vera passione, che dopo la laurea diventa anche un mestiere con l'assunzione alla cattedra di lettere all'Università di Leeds nel 1921. A quell'epoca John ha già sposato Edith Bratt, che gli ha dato due figli. Il terzo, Christopher, e Priscilla, l'unica figlia, nasceranno qualche anno dopo. Eppure, prima dell'arrivo di quei felici giorni, John ha potuto toccare con mano cosa significhi trovarsi al centro di una battaglia, sentire il sapore del sangue, vedere con i propri occhi la morte di nemici e compagni, sensazioni che così realisticamente saprà trasferire nelle descrizioni delle battaglie dei suoi libri. You're a very lucky man. I know, sir. At least that's what my wife keeps telling me. Arruolato volontario nei Lancashire Fusiliers, John è infatti inviato sul fronte occidentale per partecipare alla cruenta battaglia della Somme, dove vedrà eroicamente morire vicino a lui tre dei suoi migliori amici. Ancora una volta Tolkien fa sua un'esperienza di vita e di sofferenza che non mancherà di interiorizzare e tematizzare più tardi, facendo emergere l'amicizia, l'eroismo, il coraggio e l'eventuale prezzo della vittoria che permeano tutta la trilogia dell'Anello. Ma nel 1925, quando è nominato professore di filologia anglosassone al Pembroke College di Oxford, dove si trasferisce con tutta la famiglia, la guerra è momentaneamente dimenticata. Il Pembroke rappresenta una svolta nel destino di John, non soltanto per la possibilità di continuare i suoi studi linguistici, ma anche per un incontro fondamentale con un uomo che come lui fa dell'immaginazione un potente ponte tra il fantastico e il reale. È un professore di lettere e filosofie antiche di origini irlandesi che, come John, ha il vezzo di firmare i suoi scritti utilizzando, oltre al cognome, solo le iniziali del nome di battesimo. Lui l'ha ascoltato tutto, pezzettino per pezzettino, letto ad alta voce. Il debito impagabile che io ho nei suoi confronti non è tanto un'influenza come la si intende di solito, quanto il puro incoraggiamento. A lungo è stato il mio unico pubblico, solo lui mi ha messo in testa che la mia roba poteva essere qualcosa di più di un divertimento privato. Noi abbiamo un grosso debito reciproco e quel legame, con il profondo affetto che l'ha generato, resta. Le parole che Tolkien tributa all'amico testimoniano un legame di profonda amicizia e reciproca stima che va oltre la mera esperienza comune nell'insegnamento o la passione per le storie fantastiche. E soprattutto è un legame che ha origine all'interno di un eccezionale gruppo di discussione letteraria nato all'Università di Oxford, di cui entrambi fanno parte, noto come The Inklings. A Destini Incrociati stiamo facendo la conoscenza degli Inklings, un gruppo di letterati inglesi che a metà degli anni 30 del Novecento, presso l'Università di Oxford, si riunisce per parlare di letteratura e confrontarsi sui libri letti e scritti dagli associati stessi. Ecco come racconta l'origine degli Inklings lo stesso Tolkien in una lettera dell'11 settembre 1967. Caro Mr. White, posso darle una breve spiegazione del nome Inklings? Il nome non fu inventato da Lewis e nemmeno da me. In origine non era che uno scherzo da studenti che copiava il nome da un club letterario. Il fondatore era uno studente dell'University College. La data non la ricordo, probabilmente a metà degli anni 30. Egli era, penso, più consapevole rispetto alla maggior parte degli studenti del carattere passeggero del loro club e delle loro mode e aveva l'ambizione di fondare un club che si dimostrasse più duraturo. Comunque, chiese ad alcuni professori di farne parte. Nell'occasione sia Lewis sia io ci iscrivemmo. Il club si riuniva in un appartamento all'University College. La sua regola imponeva ad ogni membro di leggere ad alta voce delle composizioni inedite. L'accordo era che queste sarebbero state sottoposte a critica. Inoltre, se il club lo riteneva opportuno, una di queste composizioni poteva essere messa ai voti per vedere se era degna di entrare in un registro. Io ero incaricato di tenere questo registro. Benché fosse nostra abitudine leggere ad alta voce composizioni di vario genere e lunghezza, questa associazione e questa abitudine sarebbero comunque nate in quel periodo, sia che fosse esistito il club precedente o meno. Lewis aveva una vera passione per ascoltare le cose lette ad alta voce e facilità nella critica estemporanea, caratteristiche che, specialmente quest'ultima, nessuno dei suoi amici condivideva. I due esponenti più noti degli Inklings sono appunto Tolkien e il Lewis di cui si fa riferimento nella lettera, ovvero l'autore di uno dei più importanti libri di letteratura fantasy del secolo scorso, insieme al Signore degli Anelli, Le Cronache di Narnia. E il suo nome completo è Clive Staples Lewis. Clive Staples Lewis. Devi tenerlo addosso, tesoro, capito? Senti caldo così. Se papà fosse qui non ci farebbe partire. Se papà fosse qui la guerra sarebbe finita e non dovremmo andarcene. Ascolterai tuo fratello, non è vero, Edmund? Promettimi che avrai cura dei tuoi fratelli. Ma certo, mamma. Ci conto. Susan. Piccola, sei brava. Ecco. Ora andate. Lasciami! Fa salire da solo sul treno. Dai, lasciami! Posso vedere i biglietti, per favore? I biglietti, per favore. Peter! Vai pure, piccola. Sì, grazie. Vieni, Lucy. Dobbiamo restare uniti adesso. Vedrai che si sistemerà tutto. Andrà tutto bene. Andrà tutto bene. Amore mio, ciao. Ciao, ma ci mancherà, a presto. Ciao. Ti voglio bene, mamma. I quattro fratelli Pevensey, protagonisti delle Cronache di Narnia, anche se non sono orfani, vengono fin dall'inizio del romanzo allontanati dai genitori e affronteranno tutte le loro avventure privi dell'appoggio e della presenza di adulti del mondo reale. Anche il loro inventore, come l'amico Tolkien, perde la madre a soli 10 anni, fatto che ne segna l'intera esistenza e influenza le tematiche letterarie future. Ma quando il piccolo Clive resta senza la madre, le storie di Narnia sono ancora di là da venire. Il padre, avvocato, non ha molto tempo per seguire i 3 figli che sono mandati a convitto in un collegio dell'Hertfordshire, luogo nel quale il piccolo Clive sviluppa una forte ostilità nei confronti del sistema educativo inglese dell'epoca, paragonando i collegi a campi di concentramento. Le sue difficoltà di integrazione costringono suo padre a cambiare più volte il college e alla fine ad affidarlo a una formazione privata. È la svolta per Lewis, che è affidato alle cure di William Kirkpatrick, un ex preside molto capace che riesce a fare innamorare il giovane Lewis agli studi. Kirkpatrick, colpito dalla passione del ragazzo per le storie e le leggende nordiche, in particolare quelle con protagonisti animali, lo incoraggia a scrivere racconti. Clive, a soli 15 anni, inventa un mondo di animali parlanti chiamati Boxen, embrione di un mondo di fantasia che un giorno evolverà in Narnia. È un castoro. Vieni, piccolo. Vieni qui. Non ho alcuna intenzione di annusarla, se è questo che vuoi. Scusa. Lucy Pevensey. Sì. È il fazzolettino che ho regalato al signor... Tunnus. L'ha dato a me prima che lo arrestassero. Ma sta bene. Seguitemi. Che state facendo? Ha ragione. Chi ci dice che possiamo fidarci di lui? Ha detto che conosce il fauno. È un castoro. Lui in ogni caso non dovrebbe parlare. Va tutto bene? Sì, stavamo solo discutendo. È meglio farlo in un posto più sicuro. Quando a 18 anni Clive vince una borsa di studio per lo University College of Oxford, anche per lui la guerra scompiglia e arresta ogni piano. Nel 1917 è chiamato alle armi per servire come ufficiale nel 3° battaglione del Somerset Light Infantry e schierato in prima linea il giorno del suo 19° compleanno nella Valle della Somme, in Francia, come il suo futuro amico Tolkien. I due non si incontrano durante la terribile esperienza, ma ne condividono l'orrore e fanno proprio uno scenario emotivo che un giorno sapranno far confluire in modo molto vivido nei loro romanzi. ne parleranno spesso, influenzandosi a vicenda nei loro incontri a Oxford e nelle serate passate in compagnia degli Inklings. Rientrati dalla guerra, uomini ormai temprati dalle vicende della vita, sono pronti per incontrarsi e unire le loro forze per regalare a bambini e adulti sognatori di tutto il mondo i loro capolavori. Strano destino quello degli Inklings, il gruppo di docenti nella Oxford tra le due guerre col vizio della mitologia e della scrittura fantastica, solito incontrarsi al pub The Eagle and Child per discutere di letteratura e molto di più. Il successo di Tolkien e Lewis finirà per travolgere quello degli altri componenti e relegarli in secondo piano. Eppure le personalità che hanno costituito il gruppo sono state numerose e notevoli. Charles Williams, ad esempio, oppure Hugo Dyson, o ancora Owen Barfield, i cui nomi sono ormai ricordati solo da pochi appassionati di letteratura britannica. Inklings deriva dall'esclamazione «Wet, we inklinga», espressione coniata da Tolkien parodiando i versi di apertura del Beowulf, opera mitologica anglosassone che può essere liberamente tradotta con «Or dunque, noi inchiostriamo», e visti i risultati ottenuti, si può dire che inchiostrassero davvero. Ma nonostante le belle serate al pub e il confronto con gli illustri colleghi di Oxford siano stati a entrambi molto utili, e lo stretto rapporto intellettuale tra John e Clive a essere davvero decisivo per entrambi alla fine dello sviluppo delle loro opere, Asgard, i miti nordici, le lingue antiche, sono i loro argomenti preferiti, che discutono per ore la sera, la pipa stretta tra le mani e una risma di carte appoggiata alle ginocchia. Anche la religione diventa presto un piano di confronto importante. Tolkien contribuisce alla conversione di Lewis al cristianesimo, sperando inizialmente di convincerlo a farsi cattolico, ma il retroterra culturale nord-irlandese di Lewis lo porta ad aderire a quella che definirà una via media tra cattolicesimo e protestantesimo, cioè la Chiesa anglicana. Come riferisce Humphrey Carpenter nel libro Gli Inklings, nella notte del 19 settembre 1931 è Tolkien a fornire all'amico una suggestione fondamentale per poter accettare pienamente il cristianesimo, ricorrendo proprio all'amore di Lewis per la mitologia. Tolkien chiese a Lewis se, godendo di tanti miti che parlavano di morte e resurrezione di antichi dei, si fosse mai posto la domanda del loro significato. Naturalmente no. Si limitava ad appassionarsi a quelle storie e ne ricavava intuitivamente qualcosa che i più astrusi ragionamenti teologici non avrebbero mai potuto dargli. Perché allora non poteva considerare la storia del Cristo come un racconto che si fa vero? Così come parlare è un'invenzione riguardante oggetti e idee, il mito è un'invenzione a proposito della verità. Solo a destini incrociati, Gandalf, lo stregone del Signore degli Anelli, può sedersi tranquillamente a fumare l'erba pipa degli Hobbit, scambiando due parole con Aslan, il leone parlante re di Narnia, con il quale decidere il destino di elfi, nani, fauni e streghe, animali parlanti e molto altro ancora. E forse non siamo così lontani da ciò che è successo nella realtà, se come abbiamo raccontato, nella placida Oxford universitaria del dopoguerra, due professori, due grandi scrittori, colleghi e amici, John Ronald Reuel Tolkien e Clive Staples Lewis, amano fare proprio questo, sedersi e parlare di mondi incantati, prodigiose avventure, epiche battaglie tra il bene e il male, ispirandosi a vicenda, consigliandosi e in qualche modo esorcizzando ferite profonde lasciate in loro dalla vita. Ecco come Lewis parla del loro rapporto. Alla mia venuta al mondo mi avevano tacitamente avvertito di non fidarmi mai di un papista e, apertamente, al mio arrivo a Oxford, di non fidarmi mai di un filologo. Tolkien era l'uno e l'altro, ma naturalmente ci capivamo alla perfezione. Ricordo che un giorno gli dissi: «John, c'è troppo poco di quello che piace a noi nelle storie in circolazione. Ho paura che le dovremmo scrivere noi». Ma i due amici scrittori non sono solamente austeri professori dotati di ipertrofica fantasia. Al pub The Eagle and Child, ancora oggi visitabile al 49 di Giles Street a Oxford, ribattezzato dagli stessi Inklings The Bird and the Baby, i motivi di convivialità sono molteplici e spesso diversi dalla letteratura. Pinte di birra, pranzi, cene, celebrazioni di compleanno e degustazioni. «Abbiamo avuto una splendida festa al prosciutto», scrive un compiaciuto Tolkien al figlio nel 1952. Ma al di fuori di questi momenti di convivialità, ad attendere Tolkien e Lewis c'è anche il lavoro. ed è un lavoro duro, di sistematizzazione e di verifica, dovuto al fatto che entrambi scrivono un'opera che sfiora le 1200 pagine. Il primo capitolo della saga della Terra di Mezzo si intitola La Compagnia dell'Anello, mentre il ciclo di Narnia si apre con Il Leone, la Strega e l'Armadio, libri nei quali il lettore è introdotto ai personaggi principali e ai mondi nei quali essi compiono le loro gesta. Sia per John che per Clive l'intento è quello di chiarire come sia l'unione a fare la forza e di come si possano superare enormi difficoltà con l'amicizia. I quattro hobbit, Frodo, Sam, Pipino e Merry, partono per un oscuro viaggio contro forze ben più grandi di loro. I quattro fratelli Pevensey, Peter, Susan, Edmund e Lucy, attraversano un portale magico per immergersi in pericoli e avventure incredibili. Un'altra prova dell'influenza reciproca tra i due scrittori inglesi. Padron Frodo non si muoverà senza di me. No, certo, è quasi impossibile separarvi, anche quando lui viene convocato ad un consiglio segreto e tu non lo sei. Ehi, veniamo anche noi! Dovrete mandarci a casa legati in un sacco per fermarci. Comunque, ci vogliono persone intelligenti per questo genere di missione. Ricerca. Cosa? Ma così ti autoescludi, Pipino. 9 compagni. E sia. Voi sarete la compagnia dell'anello. Quando si è re o regina di Narnia, si è sempre re o regina. Possa la vostra saggezza illuminarci finché le stelle non cadranno dal cielo. Lunga vita re Peter! Lunga vita re Edmund! Lunga vita regina Susan! Nonostante alcune similitudini di impostazione e l'impianto narrativo in stile fantasy, le due trilogie sono sostanzialmente diverse. E mentre Lewis è sempre rimasto appassionato sostenitore del Signore degli Anelli, non si può dire che Tolkien ricambiasse l'entusiasmo nei confronti di Narnia, troppo lontana dal suo mondo per gusto, scelte narrative e fonti. Un approccio alla scrittura, quello di Lewis, che Tolkien definisce in questo modo. L'intrusione tipicamente lewisiana di cose che non c'entrano. Al di fuori delle divergenze narrative, dopo l'incontro che ne ha cambiato i destini personali e professionali, avviene un progressivo allontanamento tra i due amici, che ha inizio a causa dell'arrivo negli Inklings di Charles Williams, scrittore e poeta londinese caro a Lewis ma malvisto da Tolkien. Forse conscio dell'influenza esercitata da Williams su Clive, Tolkien soffre di una malcelata gelosia. Quando nel 1957 Lewis incontra e poco dopo sposa Joy Grisham, una colta americana appassionata delle sue opere, la distanza tra i due si fa ancora più grande, anche per la diffidenza con la quale Tolkien guarda al matrimonio tardivo dell'amico, che è prossimo ai 60 anni. Ecco come ci viene raccontato dal regista Attenborough l'incontro tra i due futuri sposi nel film Shadowlands. Mi scusi, devo incontrare il signor C.S. Lewis, lo scrittore. Sì, signore. Lei sa com'è fatto? No, signore. Neanche lui sa come sono fatta io. Sì, signore. Ha qualche idea? No, signore. C'è nessuno qui che si chiama Lewis? Signora Gresham, è un piacere. Piacere mio. Questo è mio fratello Wardy. Maggiore Lewis? La prego, si sieda. E così è riuscita a trovarci? Sì, ho seguito la guida. Eccomi qui. E lei non è affatto come me l'ero immaginato. Ah, sono spiacente di deluderla. Le chiedo scusa anche a nome di Oxford. Beh, non le è piaciuto, vero? Vede, io non mi posso definire una figura pubblica, signora Gresham. Ah, davvero? Vuole dire che scrive i suoi libri e tiene tutte quelle conferenze perché la gente la lascia in pace. Oddio. Ci siamo appena incontrati e già mi regge dentro. Mentre John, pur amando per tutta la vita la moglie, non la coinvolge mai nella creazione del suo mondo fantastico, al contrario Clive, sposando una letterata, inizia a condividere con lei un'affinità intellettuale che Tolkien non comprenderà mai. Lewis continua la sua carriera accademica, ma già nel corso degli anni 40 raggiunge un'enorme popolarità grazie ai suoi saggi e ai suoi romanzi, tra i quali fanno spicco la trilogia spaziale e le lettere di Berlicche, venduti in milioni di copie, tanto da meritare nel 1947 l'articolo di copertina sulla rivista Time Magazine e fino ad arrivare al suo apice nel 1950 con la pubblicazione del primo libro del ciclo di Narnia. Il 22 novembre 1963, la notizia della morte di C.S. Lewis, in seguito all'aggravarsi di problemi cardiaci, è pressoché ignorata dal mondo, a causa della concomitanza con l'assassinio di J.F. Kennedy a Dallas e della morte di Aldous Huxley, suo connazionale e collega, probabilmente più noto di lui, in quanto da molti considerato come il padre spirituale del movimento hippie. Chi ne resta invece molto colpito è naturalmente Tolkien, che pur non vedendolo da tempo conserva intatta la stima e l'affetto per quell'impareggiabile compagno di avventure intellettuali, che in una lettera di qualche tempo dopo ricorderà con queste parole: naturalmente potrei dire molto di più, ma non lo farò. Tuttavia vorrei dire che dopo la morte di un grand'uomo si potesse impedire di parlare a quei piccoli uomini che non hanno, e dovrebbero rendersene conto, una conoscenza sufficiente della sua vita e del suo carattere per poter dire la verità. Dopo la morte di Lewis, per Tolkien è già tempo di raccogliere un successo che porterà Lo Hobbit, La Compagnia dell'Anello e i suoi seguiti Le Due Torri e Il Ritorno del Re, riuniti in un unico volume chiamato Il Signore degli Anelli, e tutte le altre opere ambientate nella Terra di Mezzo, a essere vendute e tradotte in pratica in ogni angolo del mondo, come spiega Gianfranco De Turris, della Società Tolkieniana. Tolkien è l'unico autore, in pratica, che ha creato un universo alternativo completo e autosufficiente con la sua narrativa. Il Signore degli Anelli e l'Hobbit e il Silmarillion e tutti gli altri libri collegati creano una subcreazione, come lui affermava, costituiscono una specie di altra realtà che è parallela alla nostra, realtà che si rifà a miti e simboli.